Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Appuntamento che dovrebbe essere diventato, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ormai immancabile per voi, spero, tutte le sere, da lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22, per avere un quadro della giornata mentre il giorno si sta chiudendo e anche per sentire gli ospiti in diretta, come c'è stato ieri il legale di Maradona. Stasera avremo altri ospiti in diretta. Ci sono tra l'altro in questa giornata in particolare due sentenze molto importanti di cui man mano parleremo. Vi ricordo che c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, Effetto Notte trattino Roberta Giordano, per i vostri commenti. Partiamo subito dai titoli dei fatti principali. Partiamo da quelli che potremmo annoverare sotto questa notizia, sotto i costi della politica, visto che nella regione Emilia-Romagna sono indagati per peculato tutti i nuovi capigruppo dei partiti, compresi 5 Stelle. La commissione bicamerale antimafia, Rosy Bindi è la nuova presidente, ma il PDL non ci sta, non vota per protesta contro il mancato accordo su un nome condiviso e dice: commissione delegittimata, si dimetta la Bindi. E la Bindi risponde: non posso. Lo scandalo Datagate, il presidente del Copasir Stucchi commenta a Radio 24: i servizi italiani sono ignari della raccolta dati da parte americana. Il caso Cucchi, accordo tra i familiari e l'ospedale dove fu ricoverato per il risarcimento danni. C'è l'accordo per il risarcimento danni, ma la battaglia legale contro i poliziotti, afferma la sorella Ilaria, continua. Calcio, Champions League, Kakà contro Messi e Pandev per vincere a Marsiglia. Questa è la notte di Milan e Napoli e pare che il Milan abbia già segnato, ma tra poco sentiremo direttamente dallo stadio di San Siro. Andiamo con i fatti. Quindi vi dicevo, un'altra regione piena di... Consiglio regionale pieno di indagati, c'è questa inchiesta della Procura di Bologna sui fondi del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna. Sono indagati tutti e 9 i capigruppo dell'attuale legislatura, che è cominciata nel 2010. A quanto si apprende, l'accusa per tutti è peculato. Si tratta quindi dei politici che guidano i gruppi di PD, PDL, Italia dei Valori, Lega Nord, Federazione della Sinistra, Movimento 5 Stelle, SEL Verdi, UDC e Gruppo Misto. Passiamo invece alla politica nazionale. La frattura nella maggioranza che ha segnato la nomina di Rosy Bindi a presidente dell'antimafia. Dopo 6 mesi di attese, polemiche e trattative, la commissione antimafia ha di nuovo un presidente, ma le tensioni invece di diminuire aumentano. Al secondo turno è stata eletta Rosy Bindi con 25 voti di PD, SEL e Scelta Civica, ma senza il PDL, che ha disertato Palazzo San Macuto e che annuncia di voler disertare tutti i lavori della commissione contro la scelta di un candidato non condiviso. Uno strappo questo che per Schifani e Brunetta può essere superato solo con le dimissioni della stessa Bindi. Sanerò la frattura, riconoscano il voto, e la risposta della neo presidente, che come primo atto manda un segnale conciliante. Infatti, se formalmente si potrebbe lavorare pure senza un gruppo, l'intenzione, dice Bindi, è cominciare il giorno in cui il PDL indichi il suo capogruppo, perché dobbiamo fare la guerra alle cosche, non tra di noi. Il braccio di ferro intorno a questa delicata poltrona si è inasprito dopo che è saltato l'accordo di maggioranza intorno al nome di Dell'Ai, Scelta Civica. A quel punto il PD ha rivendicato quel ruolo e, accantonate ipotesi alternative, ha puntato compatto su Rosy Bindi, innescando però una rottura che per Francesco Giro è un colpo alle larghe intese. Raffaella Calandra, Radio 24, Sulle 24 Ore. E intanto il Quirinale è ancora al centro di polemiche suscitate questa volta da un articolo del Fatto Quotidiano e dal nuovo post di Beppe Grillo. Ridicole panzane, così l'ufficio stampa del Quirinale definisce le notizie riportate dal Fatto Quotidiano circa la presunta promessa di grazia che il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, avrebbe fatto a Silvio Berlusconi. La posizione del Presidente in materia di provvedimenti di clemenza, prosegue la nota del Colle, è stata a suo tempo espressa con la massima chiarezza e precisione. Nell'articolo del Fatto sono riportati alcuni virgolettati attribuiti a Daniela Santanchè, affermazioni fatte a Rai 1 domenica scorsa, nelle quali la deputata del PDL sostiene che Napolitano ha tradito il patto e che non c'è stata la pacificazione promessa con la grazia al Cavaliere. Ma Giorgio Napolitano viene attaccato anche da Beppe Grillo nel suo nuovo post. Il leader del Movimento 5 Stelle annuncia il terzo V-Day a Genova il 1° dicembre e in un passaggio attacca il Quirinale. Napolitano è stato eletto da Berlusconi, scrive Grillo, di cui ovviamente sapeva ogni pendenza giudiziaria, ma per il sistema qualunque compromesso è meglio del cambiamento. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto c'è una notizia di pochissimo fa, battuta dalle agenzie, e riguarda sempre i rapporti Italia-Stati Uniti. Il segretario di Stato americano John Kerry è arrivato a bordo di un volo speciale proveniente da Londra, atterrato all'aeroporto militare di Ciampino circa neanche 10 minuti fa. Domani avrà incontri con il presidente del Consiglio Letta e il primo ministro di Israele Netanyahu. E passiamo al caso Ustica. Il depistaggio nelle indagini sul disastro aereo avvenuto il 27 giugno 1980, in cui morirono 81 persone, deve considerarsi il depistaggio definitivamente accertato. Questo l'ha stabilito la Cassazione, deliberando quindi un nuovo processo civile per valutare la responsabilità dei ministeri della difesa e dei trasporti nel fallimento dell'Italia, proprietaria del DC-9 precipitato. La tesi del missile sparato da aereo ignoto quale causa dell'abbattimento dell'aereo caduto al largo di Ustica, appunto, il 27 giugno 80, risulta ormai consacrata anche nella giurisprudenza della Cassazione. Lo sottolinea la stessa Suprema Corte. Poi di questo parleremo con la presidente dell'Associazione Vittime di Ustica. Passiamo al capitolo all'Italia. International Airlines Group, cui fanno capo le compagnie aeree Iberia e British Airways, sta valutando di ricorrere alle vie legali sul caso l'Italia per opporsi all'intervento del governo italiano per salvare la società, in quanto considerato un palese aiuto di Stato. Questo lo ha annunciato l'amministratore delegato del gruppo Willie Walsh a Londra. E arriviamo così allo scandalo Datagate, dopo l'ulteriore scandalo, notizia di ieri, vi ricordate delle intercettazioni operate anche in Francia da parte dell'organismo americano per la sicurezza. Per quanto riguarda l'Italia, Giacomo Stucchi, che è presidente del COPASIR, il Comitato di Controllo sui Servizi Segreti Parlamentare, risponde no assolutamente alla domanda se i servizi italiani fossero a conoscenza della raccolta di dati messa in atto da parte dell'Agenzia per la Sicurezza Nazionale Americana. Dopo lo scontro diplomatico fra Francia e Stati Uniti, il Datagate fa discutere anche in Italia. Il garante per la privacy, Antonello Soro, oggi ha chiesto al Premier Letta di verificare se la raccolta, l'utilizzo e la conservazione di informazioni relative a comunicazioni telefoniche e telematiche da parte dell'NSA abbia coinvolto anche cittadini italiani. Secondo Claudio Fava, deputato di SEL e componente del Comitato di Controllo sui Servizi Segreti, le attività di spionaggio hanno riguardato anche l'Italia e i nostri 007 ne erano a conoscenza. L'NSA ci ha assicurato che né il nostro governo né i nostri servizi erano stati informati del programma di spionaggio, sostiene invece il presidente del COPASIR, Giacomo Stucchi. Dire che i nostri servizi sapessero non sapendolo il governo non è assolutamente corretto. Stucchi assicura comunque che il COPASIR chiederà al governo di fare chiarezza e già domani ascolterà il sottosegretario Minniti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Sempre comunque in primo piano c'è la questione dell'immigrazione dopo i naufragi e in tanti morti di Lampedusa. Il tema sarà al centro del Consiglio europeo che inizierà da giovedì a Bruxelles. Impegni concreti, decisioni rapide e operative. Dal vertice di Bruxelles del 24 e 25 ottobre l'Italia si aspetta una chiara assunzione di responsabilità dell'Europa. Il problema è infatti europeo, ammonisce Letta presentando il piano immigrazione che l'Italia sottoporrà al vertice. La Sicilia non è la periferia dell'Europa ma un suo avamposto. L'Europa, per la sua stessa storia, per le sue più profonde e nobili ragioni fondative, non può stare a guardare. Se lo fa, l'Europa muore. L'Unione è stata distante per troppi anni. Non accetteremo a Bruxelles compromessi al ribasso. Dopo Lampedusa, avverte ancora Letta, nessuno si faccia illusioni, l'emergenza non finisce qui. Così anche il ministro degli esteri Bonino. È un fenomeno quasi inarrestabile. Quindi intanto va accettato e una volta accettato porsi il problema di come governarlo al meglio. Al Consiglio europeo di giovedì l'Italia chiederà dunque misure immediate per attuare il programma di sorveglianza Eurosur, il rafforzamento di Frontex, politiche comuni di asilo e migrazione, dialogo con i paesi del Mediterraneo, un piano che, fa sapere il portavoce del commissario agli affari interni Malmström, converge con le priorità già annunciate dalla Commissione. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E c'è una novità per quanto riguarda il caso di Stefano Cucchi. L'ospedale risarcirà i familiari che non saranno più parti civili contro i medici, ma la sorella fa sapere che proseguiremo la battaglia legale contro i poliziotti che lo picchiarono. E la sorella di Stefano, Ilaria Cucchi, sarà tra poco qui in diretta effetto notte. E ora invece andiamo nel casertano. Nella retata antica morra finisce anche un sacerdote. Ti auguro tutto il bene che un prete può augurare ad un uomo. Con queste parole Don Carmine Schiavone si rivolgeva al boss Nicola Panaro, arrestato nel 2010 dopo 7 anni di latitanza e una rocambolesca vacanza a Monte Carlo. Sono moltissime le lettere di Don Carmine finite tra gli atti dell'indagine della DDA di Napoli, che ha portato all'arresto di 14 persone. Oltre alla moglie di Panaro, in manette sono finiti anche alcuni cittadini insospettabili, senza collusioni con i clan. Un esempio per tutti, l'impiegato dell'anagrafe di San Cipriano d'Aversa, nel Casertano, che ha fornito al boss i documenti falsi serviti per l'espatrio. Don Carmine, all'epoca viceparroco a Villa Literno, risulta per ora soltanto indagato. Il capitano dei carabinieri, Michele Centola, spiega così il ruolo del sacerdote. Gli vengono contestati il favoreggiamento personale e la procurata in osservanza di pena aggravati dall'articolo 7, quindi aver favorito le associazioni di stampo camorristico. Non è emerso un apporto materiale, ma è emerso un contributo morale. Incoraggiava il latitante nel proseguire il suo stato di irreperibilità. Parliamo adesso di maltempo, perché scatta l'allerta 1-2 sulla Liguria. Ieri era soprattutto coinvolta la Toscana. L'allerta per l'arrivo della nuova perturbazione attesa per le prossime ore. Comuni e Protezione Civile sono già stati allertati dopo i danni della notte. 175 mm di pioggia in due ore, un'autentica bomba d'acqua si è scaricata nel cuore della notte sull'entroterra della Riviera di Levante. Frane, torrenti esondati e due automobilisti salvi per miracolo. Stavano transitando su un ponte all'altezza di Carasco nel momento in cui è crollato. Trascinata dalla piena una donna di 36 anni ha nuotato per più di 500 metri prima di essere tratta in salvo. Un testimone ha parlato di un'altra auto volata nel torrente, ma le ricerche di eventuali dispersi non hanno dato esito e non ci sono denunce di scomparsa. In Valle Sturla, in parte della Val Fontana Buona, il nubifragio ha flagellato un territorio già fragile. Frazioni isolate, sospesa l'erogazione del gas, smottamenti anche nello Spezzino. E ora c'è preoccupazione per le prossime ore. Sulla Liguria, infatti, è attesa un'altra perturbazione. Dalle 6 di domattina fino alla mezzanotte sarà allerta 1 nelle province di Genova e La Spezia. Nel quartiere genovese di Marassi, 5 scuole chiuse, sospeso il mercato rionale. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. E arriviamo così al calcio con la Champions League. Ci sono Milan e Napoli questa sera che giocano. In particolare c'è il nostro Dario Ricci allo stadio di San Siro per Milan-Barcellona. Dario, che succede? Sì, buonasera, siamo al 28esimo del primo tempo ed è 1-1 tra Milan e Barcellona. Un ottimo Milan che è trascinato da Robinho e Kakà, titolari insieme a Pirza. Balotelli invece è partito in panchina. È scattato subito dai blocchi di partenza, subito una buona occasione al sesto, Robinho in verticale per Muntari che segna sì, ma è fuori gioco, giusto l'annullamento della rete, il gol è quello buono, arriva al nono con una triangolazione tra Robinho, che è lo stesso Robinho dopo un errore sesquipedale di Mascherano, e a quel punto il brasiliano ha vita facile nel battere Victor Valdés e nel siglare l'1-0, un Milan che mette sotto pressione il Barcellona, ma è al 23esimo che arriva il pari dei catalani, palla aperta al centrocampo dai rossoneri, il pallone arriva a Messi che al centro dell'area si difende dalla Milanisti e batte l'incolpevole Amelia. Un Milan che pochi istanti fa è andato però vicino al raddoppio, calcio d'angolo di un buon Kakà in questa prima mezz'ora di gioco, l'uscita a posto di Victor Valdés, il colpo di testa di Messi, palla fuori di un niente. 0-0 invece il risultato ancora a Marsiglia tra Napoli e Marsiglia, mentre qui a San Siro siamo ormai alla mezz'ora, 1-1 tra Milan e Barcellona. Grazie Dario Ricci, sentiamo l'atmosfera calcistica. Adesso spostiamoci sulla tecnologia, perché era tanto atteso, è stato presentato poco fa a San Francisco, un'oretta e qualcosa fa, il nuovo iPad. Apple rilancia i suoi tablet con il nuovo iPad Air e il nuovo iPad Mini. L'iPad Air rappresenta la quinta generazione di quei tablet che in 3 anni e mezzo hanno venduto 170 milioni di pezzi, diventando, dopo l'iPhone, la seconda voce del fatturato di Apple. Il nuovo iPad costa a partire da 499 euro, è grande come il precedente ma più leggero, più sottile e con un processore più potente, lo stesso dell'iPhone 5S. Quanto all'iPad Mini, ormai il preferito dei consumatori, costa 399 euro e la nuova versione è Retina Display e lo stesso processore del compagno più grande. Apple ha inoltre presentato i nuovi MacBook Pro, il nuovo Mac Pro e reso disponibile da oggi il sistema operativo Mavericks. Il titolo Apple a Wall Street ha mostrato un ribasso dopo l'annuncio, forse perché rispetto alla vigilia non ci sono state sorprese. Anche Nokia cerca un posto nel ricco mercato dei tablet. Lo fa con il nuovo Lumia 2520, lanciato oggi al Nokia World di Dubai. Monta sistema operativo Windows RT e costa $499. Viene definito il primo tablet Nokia, anche se a dire il vero i finlandesi lanciarono un prodotto pionieristico nel 2007. Andò male nel frattempo, con l'iPad ad aprire la strada, tutto è cambiato e Nokia e Microsoft, fresche di matrimonio, devono rincorrere cercando una strategia coerente contro Apple, Google e Samsung in primis. Luca Salvioli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano, sempre con voi. Vi ricordo i titoli prima di passare agli ospiti e forse riusciamo a sentire anche un pezzettino di Cross tra poco. Tornavi a casa, svuotavi lo zaino e trovavi in fondo un pacchetto di crackers tutto spaccato, sai? E dicevi, ecco dov'era finito. E vabbè, ma se lo apro adesso faccio solo del casino. Ecco, la politica italiana mi ricorda le briciole dei crackers. Ecco, con questa, su questa battuta vi ricordo i titoli, poi risentiamo ancora un pezzetto di Crozza. Partiamo dalla commissione bicamerale antimafia, che ha il suo presidente, anzi la sua presidente, Rosy Bindi, ma il PDL non ci sta, non vota per protesta contro il mancato accordo sul nome condiviso. Dice la commissione delegittimata, si dimette alla Bindi, e Bindi risponde non posso. Una nuova indagine, questa volta riguarda la regione Emilia-Romagna, indagati per peculato tutti i nuovi capigruppo dei partiti, compresi i 5 Stelle. Lo scandalo Datagate, il presidente del Copasir, Stucchi, commenta a Radio 24, i servizi italiani ignari della raccolta dati da parte americana. E poi il caso Cucchi, c'è accordo tra i familiari e l'ospedale dove fu ricoverato per il risarcimento danni, ma la battaglia legale contro i poliziotti, dice la sorella Ilaria, non si ferma qui. Calcio Champions League, Kakà contro Messi e Pandev per vincere a Marsiglia, la notte di Milan-Napoli, beh, ci ricordava poco fa Dario Ricci che Milan-Barcellona per il momento viaggiano 1-1. E risentiamo ancora un po' di Crozza. Sperare di fare una destra senza Berlusconi in Italia. Hai più chance se organizzi la sagra della porchetta a Teheran. 24 senatori che si fanno chiamare gli innovatori. Chi c'è? C'è Augello, Azzolini, Fazzone, Sacconi, Giovanardi. Come fai a innovare con Giovanardi? Ecco, su questa battuta direi che possiamo passare alla prima ospite. Buonasera Daria Bonfietti. Buonasera a voi. Buonasera, grazie di essere qui in collegamento con Effetto Note. Presidente da tanto tempo dell'associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, direi instancabile. Presidente Daria Bonfietti. Non ci si può fermare. Sì. Non ci si può fermare. Non ci si può fermare. Anche perché cosa sono? Ormai 33 anni? Esatto. Dal 27 giugno 1980. Manca l'ultimo tassello, ma andiamo avanti, ci riusciremo. È tenace, estremamente tenace lei e naturalmente tutti i familiari. Allora, diciamo, un nuovo tassello c'è, si va molto piano, visto che appunto dicevamo sono passati 33 anni, c'è una sentenza della Cassazione che prevede un nuovo processo civile per valutare la responsabilità dello Stato nel crack dell'Itavia, quindi una cosa che in realtà non riguarderebbe direttamente le vittime di quella strage, 81 persone, ma un'altra vittima, per così dire, che non morì ma fu rovinato dal depistaggio, da quello che la Cassazione dice che ormai è sentenza consacrata, quella del depistaggio. Ci fu il depistaggio, cioè il proprietario dell'Itavia, che era a sua volta l'azienda che produceva i 19, il 19 che precipitò quel giorno, Aldo D'Avanzali, i suoi eredi hanno fatto ricorso, è stato accolto questo ricorso perché lui fu rovinato da un discredito commerciale, no? Si disse che era un danno strutturale che fece precipitare l'aereo e quindi lui andò, diciamo così, in malora, no? Sì, è una sentenza davvero molto molto importante per tutti noi, per Aldo D'Avanzali che ha lottato tutta la vita per vedere riconosciuta la sua estraneità rispetto alle cause di quell'evento e quindi è molto importante anche perché ribadisce, come lei ricordava, che essendo stato quell'aereo abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea, vengono riconosciuti responsabili di depistaggi, di distruzione di atti, i ministeri, il Ministero dei Trasporti e il Ministero della Difesa. Sì. È molto importante perché, dicevo, D'Avanzali che ha lottato tutta la vita, non è più con noi, ma i figli insomma sono riusciti a far concludere anche questa parte davvero molto molto definitiva, no? La Cassazione è una sentenza definitiva che consolida questa verità. È vero, D'Avanzali fu il primo che disse nel dicembre del l'80 che l'aereo era stato abbattuto da un missile, da un evento esterno comunque, ma allora l'aeronautica militare italiana dava come verità possibile e la distribuiva ai ministri della Repubblica che rispondevano in Parlamento alle interrogazioni come possibile soltanto il cedimento strutturale, quindi fu tolta la concessione ad Itavia e l'Itavia fallì e io dico che Aldo Davanzali è appunto l'82esima vittima di questa tragedia ed è oggi per lui dei suoi eredi una giornata davvero molto importante. Daria Bonfietti, voi invece come vittime, come famiglie delle vittime dirette, avete avuto cos'è nel 2011? C'è stato poi alla fine, dopo tanti anni, anche l'risarcimento danni? Non è così semplice, cioè anche in campo anche i parenti delle vittime hanno fatto dei ricorsi in sede civile e un'altra sentenza, diciamo appunto che non è la prima, quella di oggi della Cassazione, un'altra sentenza della Cassazione nel gennaio di quest'anno rispetto a tre parenti che hanno fatto ricorso ha riconosciuto uguale che il 19, proprio perché è stato abbattuto, la responsabilità di questa mancata verità è dei ministeri dei trasporti, dei ministeri della difesa, quindi quei tre parenti delle vittime vedranno, non credo che sia ancora successo, riconosciuto un risarcimento. Adesso c'è sempre il rinvio a qualche altra corte per determinarne le quote eccetera eccetera, quindi non credo che sia già avvenuto nulla di che, ma l'importante è che ci sia già anche rispetto a dei parenti delle vittime questa sentenza definitiva. Altri parenti hanno già fatto ricorso e analoghi, ci sono già stati a Palermo dei primi gradi che vanno nella stessa direzione, io credo di poter dire che finiranno tutti così, lei sa che la Cassazione fa sentenza e quindi anche i prossimi provvedimenti non potranno che andare, dai parenti delle vittime non potranno che andare nella stessa direzione. Allora io dico sempre che il problema diventa veramente molto politico, nel senso che è il governo del mio paese che si deve attivare affinché non si pensi soltanto di risarcire tutti questi parenti che faranno ricorso e che vinceranno, come dicevamo, queste cause, ma si vada a chiedere conto, come dice oggi questa Cassazione, richiedendo un nuovo processo a coloro che sono stati gli autori di questi depistaggi, di questa distruzione di atti, che sono uomini delle nostre istituzioni, del Ministero dei Trasporti e del Ministero della Difesa. Io non posso non ricordare che fu appunto l'Aeronautica Militare Italiana che nell'immediatezza dell'evento diceva cedimento strutturale e intimava con lettera del capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica il 5 dicembre dell'80, pensi, 5 dicembre dell'80 ai suoi sottoposti di non accettare le altre cause che venivano in quei giorni dette, missile, bomba, eccetera, eccetera, l'unica causa possibile è il cedimento strutturale. Questo portò alla disgrazia della chiusura dell'Itavia, ma portò anche alla chiusura lentamente, dopo qualche mese, veramente molto poco se ne parlò in quegli anni, alla chiusura delle indagini sulla nostra tragedia. Abbiamo ripreso soltanto, perché io in grado sono stata solo negli anni 85-86, il tutto, e oggi diciamo che siamo arrivati già dal 99, quando Priore ci ha consegnato la verità sulle cause, a sapere cos'è successo. Non è stato cedimento strutturale, non è stato altro se non un evento di guerra aerea nei nostri cieli che ha abbattuto un aereo civile in tempo di pace. Non si può aspettare ancora che il governo del mio paese chieda conto dei comportamenti degli uomini. Ecco, prima di questa cosa, mi scusi Daria Bonfietti, c'è una dichiarazione di Carlo Giovanardi del PDL che ha detto oggi: anche nella squinternata giustizia italiana non si era mai vista la Cassazione civile sostenere esattamente il contrario di quanto stabilito dalla Cassazione penale, che ha escluso il missile quale causa dell'abbattimento del 19 dell'Itavia. Dice: i giudici civili dovrebbero avere poi la cortesia di spiegare dove, come e da chi sia avvenuto il depistaggio che dicono, definitivamente accertato, visto che i generali dell'aeronautica sono stati assolti da ogni addebito nel processo penale. Come commenta? Purtroppo è molto lunga, potrei parlare per ore, insomma, no? Processati a un processo sono andati i capi di Stato Maggiore dell'Aeronautica, due persone, capo di Stato Maggiore e vice capo di Stato Maggiore, perché incriminati per alto tradimento, perché nel 2000 soltanto quel reato che aveva come pena fino all'ergastolo poteva essere processato, tutti gli altri 60-70 dei quali si dovrebbe riparlare oggi e che chiede appunto questa sentenza di rivedere sono stati rinviati a giudizio allora per distruzione di armi, atti, depistaggi, tutte le cose, ma non hanno visto un giudice terzo, non c'è stato nessun processo perché erano già prescritti nel 2000 tutti quei reati, quindi non c'è stato nessuno che a livello penale sia stato assolto di quei reati. Oggi qualcuno chiede che si vada a rivedere i comportamenti di queste persone, quindi sì, purtroppo è una vicenda talmente lunga che capisco la difficoltà di comprendere tutti questi passaggi, ma è molto facile invece contestare queste frasi che sono così, lasciano il tempo che trovano. Insomma, la magistratura in campo penale dal 99, il giudice Priore ha detto che è stato un missile e poi ci sono stati processi appunto per dei singoli, ma insisto, molti singoli non sono stati auditi da nessun processo perché era già prescritto il loro reato. Oggi si richiede di andare a rileggere appunto i comportamenti di queste persone. Penso che un processo in sede civile, come viene chiesto dalla Cassazione, si farà nei confronti di coloro che erano in quei tempi, in quei giorni responsabili di ruoli che potevano, che hanno avuto grande importanza in quel momento. L'ultima cosa che voglio dire, che penso sia importante al di là di tutto, è che oggi noi abbiamo più forza perché vengono continuamente dalle Cassazioni in sede civile ribadite le cause come ineluttabili e come vere, appunto l'abbattimento dell'aereo, e vengono ribadite le responsabilità dei nostri uomini, degli apparati dello Stato, ma insisto, bisogna andare avanti. Ecco, bisogna trovare i colpevoli. I colpevoli. E sapere anche i colpevoli, insomma. Questo è lei come che fa, dire. Daria Bonfietti, dopo 33 anni ancora a resistere e a sperare che si trovino dopo 33 anni questi colpevoli? Beh no, ci sono, c'è stato soltanto un presidente ex della Repubblica che si chiamava Francesco Cossiga a dire come potevano essere andate le cose, quindi sa, nelle carte ormai si leggono molte cose e quindi credo che basti davvero poco, basta la forza. Ci siete quasi. E la determinazione da parte della politica, oltre che della magistratura che sta ancora lavorando in sede penale per cercare di farsi dare delle risposte da questi paesi, ma anche della politica, insisto, perché ci vuole più determinazione, no? E la sua è chiarissima di determinazione, Daria Bonfietti. Io le auguro, insomma, per lei, per le famiglie delle vittime, ma anche per tutta l'Italia, visto che questo si annovera tra gli ennesimi, tra tantissimi misteri d'Italia, di arrivare il prima possibile, finalmente, definitivamente, a una conclusione. Grazie Daria Bonfietti. Sì, grazie a lei, buonanotte a tutti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie ve le ricordo di nuovo adesso, dopo aver iniziato da circa 40 minuti, di nuovo con i titoli dei fatti principali. Partiamo dalla commissione bicamerale antimafia, che ha una nuova presidente, Rosy Bindi, ma il PDL non ci sta, quindi non vota per protesta contro il mancato accordo su un nome condiviso e dice che la commissione è delegittimata e che la Bindi si deve dimettere, la quale però risponde non posso. Costi della politica, Regione Emilia-Romagna indagati tutti i capigruppo dei partiti per peculato, tutti i 9 capigruppo dei partiti, compresi i 5 Stelle. Continua lo scandalo DataGate, il presidente del Copasir Stucchi commenta a Radio 24 i servizi italiani ignari della raccolta dati da parte americana. E intanto il Messico convoca per lo stesso problema l'ambasciatore americano. Caso Cucchi, c'è accordo tra i familiari e l'ospedale Pertini dove fu ricoverato Stefano Cucchi per il risarcimento danni, ma la battaglia legale contro i poliziotti, afferma la sorella Ilaria, continua. Il calcio, Champions League, Kakà contro Messi e Pandev per vincere a Marsiglia, e la notte di Milan e Napoli, anche se ci sono i soliti imbecilli a San Siro che al 20° turno del primo tempo hanno intonato un paio di circostanze, slogan offensivi contro la squadra partenopea che tra l'altro sta giocando a Marsiglia da tutt'altra parte. E affrontiamo adesso di nuovo il caso Stefano Cucchi con la sorella Ilaria. Buonasera Ilaria Cucchi, grazie di essere in collegamento. Buonasera, grazie a voi. Stefano Cucchi, lo ricordiamo, ormai un caso notissimo grazie appunto alla tenacia e al coraggio di sua sorella, è morto il 22 ottobre 2009 all'ospedale Pertini di Roma mentre si trovava in stato di arresto, e questo è appunto il quarto anniversario perché successe per appunto il 22 ottobre. C'è un'ulteriore tappa, nel senso che voi come familiari, Ilaria, avete accolto il risarcimento danni da parte dell'ospedale Pertini dove Stefano morì. Questo che cosa significa quindi da un punto di vista del percorso processuale, della ricerca della verità? Beh, sicuramente abbiamo raggiunto questo accordo con i medici che rappresentano una parte delle responsabilità per la morte di mio fratello. Sicuramente, per come io lo percepisco, è un importante segnale, in qualche modo io lo vivo come un chiedere scusa, come un'ammissione di responsabilità da parte di coloro che sono colpevoli per la morte di Stefano, ma insieme ad altri, non lo dimentichiamo, lo ricordavate voi e lo ribadisco io, la nostra battaglia va avanti perché non possiamo dimenticare che se non fosse stato per questi stati Stefano non sarebbe mai finito in quell'ospedale, non avrebbe mai incontrato i medici, e allora noi pretendiamo che si perseguano anche le altre responsabilità. Quello che io mi auguro che adesso, e ricordo che tra pochi giorni scade il termine per l'appello, che sarà a fine mese, io mi auguro che il magistrato non vorrà, magari per uno spirito di corpo, difendere l'operato della procura, ma che finalmente per la nostra famiglia è stato certo a quanto... Ilaria, la sentiamo un po' male col cellulare, forse in una zona in cui prende poco. Ecco, rispetto a Stefano, di cui oggi ricordiamo il quarto anniversario della sua morte, si voglia veramente concretamente inseguire la verità e provare a dare a noi una giustizia completa per quello che gli è accaduto. Perché la sentenza della Corte d'Assise di Roma di questo giugno 2013 aveva condannato per omicidio colposo 6 medici, appunto, di questo ospedale Sandro Pertini di Roma, e aveva assolto invece i 3 agenti penitenziari accusati di averlo picchiato mentre era in custodia cautelare, gli infermieri accusati di non aver prestato assistenza a Stefano mentre era ricoverato. Quindi voi come famiglia, e lei Ilaria in particolare come sorella e come testimone di questa ricerca di verità, come intende procedere? Beh, questa che lei ha ricordato è sicuramente una sentenza a metà, questo non lo dico io ma lo dice chiunque abbia seguito la nostra vicenda, e è una sentenza che comunque ha lasciato l'amaro in bocca, ha lasciato tanti dubbi, tante perplessità nel momento in cui, attenzione, non si nega il pestaggio, questo io ritengo che sia un dato molto importante, quindi si ammette che c'è stato un pestaggio dal quale poi è scaturito tutto il resto fino ad arrivare alla morte di mio fratello in quell'ospedale. È una sentenza che comunque ci lascia perplessi, che è impugnabile, questo io spero che accada. Noi faremo l'appello per quelle che sono le nostre competenze e mi auguro che lo farà anche la procura. Perché adesso c'è l'appello, e poi comunque se non doveste ricevere la sentenza che vi aspettate, andrete fino alla Cassazione? Sì, ma noi ovviamente siamo disposti a fare tutto, noi abbiamo ben chiaro quello che è successo, come ripeto, credo se l'abbia chiunque abbia seguito questa vicenda, perché è impensabile che Stefano, che faceva tapirulanda fino un'ora prima del suo arresto, poi 24 ore dopo era praticamente paralizzato e poi si è innescato tutto quel meccanismo che l'ha portato alla morte. Insomma, in quella sentenza si dice che Stefano, in poche parole, sarebbe morto di fame. Questo è davvero inimmaginabile. Sì, mancanza di cibo, di acqua, dice la sentenza. Questo è davvero inimmaginabile. Sicuramente si vuole ignorare tutto quello che ha portato a che Stefano fosse ridotto in quelle condizioni, e noi questo davvero non lo possiamo accettare. Ripeto, un dato importante in questa sentenza assurda è che comunque si ammette il pestaggio. E addirittura si immaginano altre, si ipotizzano altre responsabilità diverse da quelle degli agenti che erano stati portati sul banco degli imputati. A noi questo non interessa, perché noi non vogliamo un capro espiatorio, non vogliamo un colpevole a tutti i costi. Non siamo stati noi a fare le indagini e non siamo stati noi a decidere di farle in una sola direzione, se così è stato. Lo dico perché nella sentenza si ipotizzano responsabilità dei carabinieri, si ipotizza il momento del pestaggio, si ipotizza addirittura il movente, però poi non si restituiscono gli atti. Allora io da cittadina mi chiedo, ma che strumenti ho di fronte a questo? Mi si sta dicendo che effettivamente mio fratello è stato pestato, e quindi se non fosse stato per questo non sarebbe finito in quell'ospedale, però di fronte a questo non succede assolutamente nulla, e allora insomma è normale che le domande ci siano, vedremo quello che succederà. Lei è ottimista, Ilaria Cucchi? Sì, diciamo che non perdo la speranza, io voglio continuare a fidarmi della giustizia e ripeto, voglio sperare di avere al nostro fianco una persona davvero capace e che davvero abbia il cuore alla verità senza voler difendere nessuno soltanto per spirito di corpo. Secondo lei, l'ultima cosa, la possibile approvazione di provvedimenti di amnistia o di indulto potrebbero un po' vanificare i passi fatti fin qui? Guardi, per me è importante che rispetto a quello che è successo a mio fratello siano riconosciute delle responsabilità. Io non voglio nemmeno stare a parlare di pena o di condanna. Ovviamente mi rendo conto che se dovesse essere introdotta l'amnistia, queste persone non sconterebbero una pena se mai venissero condannate. I medici non sconterebbero una pena. Però le dico anche un'altra cosa. Fino a 4 anni fa io ignoravo quella che è la realtà delle carceri e quelle che sono le condizioni dei nostri detenuti, non dovute solamente al problema del sovraffollamento di cui tanto si parla, ma dovute proprio a un problema culturale per cui tutti i diritti di queste persone vengono calpestate. Io sinceramente, da cittadina che ha a cuore i diritti umani, da persona cattolica, io le dico col cuore che non mi sento di augurare a queste persone, con tutto il male che mi hanno fatto, che facciano in qualche modo la fine di mio fratello, che vivano in una realtà in cui ogni diritto viene calpestato. Io sono nella posizione oggi da dire che voglio l'amnistia, nonostante io sappia che grazie all'amnistia queste persone non sconterebbero una pena. Beh, insomma, grande comprensione, grande coraggio da parte sua. Ilaria Cucchi, io non posso naturalmente che augurarle di proseguire il suo cammino con la maggiore, come possiamo dire, soddisfazione delle sue aspettative di giustizia, in questo senso. Grazie. Grazie a lei. La ringrazio molto. Buona Grazie, sera. Buona serata. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberta Giordano con voi, prima di passare alla prossima ospite, alla prossima sentenza importante, di nuovo i titoli. Con la commissione bicamerale antimafia che ha la sua nuova presidente, Rosi Bindi, il PDL non ci sta e non vota per protesta e chiede di dimettersi. Lo scandalo DataGate, il presidente del Copasir Stucchi commenta a Radio 24 i servizi italiani ignari della raccolta dati da parte americana. Il caso Cucchi di cui abbiamo parlato poco fa, accordo tra i familiari e l'ospedale è per il risarcimento danni, ma la battaglia legale, conferma Ilaria Cucchi, contro i poliziotti continua. Calcio, Champions League e la notte di Napoli e Milan. Dicevo, quest'altra sentenza importante dopo quella che riguarda Ustica riguarda invece tutto un altro argomento, cioè la fecondazione assistita, la legge 40, con la prima diagnosi preimpianto che viene fatta in un ospedale pubblico. È una sentenza del Tribunale di Roma che ha intimato all'ASL di Roma di effettuare la diagnosi genetica preimpianto su una coppia fertile affetta da fibrosi cistica. Allora saluto la dottoressa Alessandra Kusterman. Buonasera, dottoressa. Famosissima direttrice dell'unità di pronto soccorso ostetrico e ginecologico della Mangiagalli di Milano, come la commenta questa sentenza? La legge 40 che piano piano si fa un po' a pezzetti, si modifica, non so. Allora, la legge 40, come sappiamo tutti, era una legge profondamente sbagliata. Le sentenze della Cassazione hanno dimostrato ampiamente che l'impianto non funzionava. Era una legge crudele che si permetteva di giudicare a priori qual era il numero di embrioni da impiantare nell'utero di una donna, che non teneva conto dei rischi a cui si sottopone una donna, appunto mettendo 3 embrioni invece che 2 come si fa oggi. Era una legge che impediva la diagnosi preimpianto, pur dicendo di fatto la legge 194 che dopo una gravidanza può essere interrotta qualora ci sia una grave anomalia fetale. Questo dimostra che se si fanno delle leggi pensando solamente all'ideologia e a non qual è il benessere e la salute della donna, si possono compiere dei profondi errori. Quindi sono molto contenta che quest'ennesima sentenza dimostri che l'impianto intero della legge è da rivedere. L'unica parte della legge che è ancora in vigore è il divieto della fecondazione eterologa. E questo è, spero, il prossimo passo che verrà smontato. Quindi lei, dottoressa Kusterman, Dice che anche questa cosa della proibizione della fecondazione eterologa è una cosa che va cambiata. Lo spieghiamo brevemente che cosa significa, per le persone che magari non tutte sanno di cosa si tratta, cioè una fecondazione che avviene, diciamo, fuori dai corpi dei diretti naturali genitori. Allora, la legge 40 riguarda le tecniche di fecondazione assistita. Una coppia sterile o una coppia, come in questo caso, portatrice di una grave anomalia, che richiede di ricorrere appunto alla fecondazione al di fuori del corpo della donna. Si producono, prendendo degli ovociti, degli embrioni, tenete presente che comunque la percentuale di successo di queste tecniche non raggiunge mai la stessa percentuale che si ottiene con una gravidanza spontanea, quindi stiamo parlando di tecniche comunque faticose per le coppie e per le donne in particolare che vengono sottoposte a simulazioni ormonali. Mettiamo che cos'è esattamente la fecondazione eterologa, mettiamo che un uomo sia sterile perché congenitamente sterile per un qualunque motivo, quindi un'assenza totale degli spermatozoi. C'è bisogno di spermatozoi di un altro uomo. Ha bisogno di spermatozoi di un altro uomo, oppure mettiamo che questa donna, una donna magari anche giovane, sia stata operata per un tumore ovarico e quindi le siano state tolte magari ambedue le ovaie, possiederà ancora l'utero ma non avrà più nelle ovaie gli ovuli che necessari per poter avere una gravidanza con i suoi ovociti. C'è il divieto di questa cosa e c'è tutto questo turismo fecondativo, procreativo verso l'estero. Se lei dovesse dire, quindi, la legge 40 secondo lei va rivista, è una legge pessima in toto o c'è qualcosa che lei salva? Beh, come lei sa benissimo, questa è una legge che è stata fatta sull'onda di emozioni. Erano state portate alla cronaca notizie di donne di 60 anni che avevano partorito figli, magari figli aspettati grazie alle ovociti della propria figlia. È ovvio che l'etica va comunque tenuta presente in queste situazioni, che non si può pensare di stravolgere completamente ciò che la natura consente, quindi io credo che da questo punto di vista però non si legiferi sulla base di un'ondata di emozioni. Il Far West non esisteva, secondo me bisogna mettere in atto dei controlli, ma sono dei controlli che i medici e i pazienti metteranno in atto tenendo presente comunque qual è il bene del paziente ma anche del futuro nascituro. Grazie dottoressa Alessandra Kusterman, si tornerà ancora con le prossime sentenze probabilmente su questo argomento, la ringrazio. Grazie. E buona continuazione. E vediamo se per chiudere c'è Dario Ricci da San Siro che ci aggiorna su Milan-Barcellona. Dario. Eccomi qua, siamo al 50° al punto della ripresa, 1-1, ma adesso l'incursione di Messi chiude la difesa rossonera, seguiamo ancora questa azione perché il Barcellona è pericoloso con Xavi e continua il palleggio con Piqué, ma il Milan sembra essersi ripreso, scampato pericolo, ricordiamo un Milan in vantaggio al 9° con la rete di Robinho dopo un pasticciaccio della difesa rossonera, ora il cross al centro ancora nell'area milanista ma libera Mezzet e poi il pareggio di Messi al 23°. A Marsiglia è importante il vantaggio del Napoli sul Marsiglia, decide finora la rete dello spagnolo Calleon al 42°. Grazie Dario Ricci, adesso ci fermiamo, vi ricordo i titoli tra poco.